जमाना बीतेगा रे बीतेगा, 有没个实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里 Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitica. E buonasera, e per la Megaphonics di oggi direzione il Mali. Il Mali che da quasi un anno è il terreno di eventi che piano piano hanno coinvolti sempre più attori della scena internazionale, dai primi segni di ribellione Tuareg all'intervento militare della Francia, all'assalto della centrale da gas dall'esercito algerino. Abbiamo sotto gli occhi tutti gli ingredienti geopolitici del mondo contemporaneo concentrati nella zona del Nord Mali e del Sahel. Un contesto fatto di economia globalizzata, un contesto fatto di una crescita degli integralismi religiosi, di soprapotenza dei complessi militari industriali e di puzza di colonizzazione. In questa trasmissione capiremo, proveremo con umiltà di capire che è successo quest'anno in Mali, quali sono gli attori presenti in questo paese. Sentiremo le voci di alcune donne del Mali per farci un'idea della situazione, delle loro azioni, della loro combattività e delle loro posizioni riguardo la guerra iniziata adesso. E per accompagnarci, come sempre, le cantanti maliene. E poi, e dunque, come prima, ascoltiamo Kaira Harbi. Kaira Harbi è una cantante della città di Tombouctou, donna forte, indipendente, donna di tolleranza e di apertura, è una donna impegnata per l'emancipazione delle sue sorelle e una donna di cuore. Kaira Harbi, a Kaira Harbi le piace quest'idea di essere un ponte tra le Tuareg del deserto, le Bambaras o le Saurans dell'Africa nera, tutti riuniti nella stessa cultura Tombouctou, dove lei vive e vivrà ancora malgrado i tempi che scorrono. Il sangue del nord e del sud colla nelle sue vene subsahariane, melodie e ritmi del nord e del sud idratano la sua musica come un oasis. Kaira Harbi è l'immagine di una cultura di tolleranza che è attualmente minacciata dalla movanza jihadista colà. In questo momento lei sta in giro nel mondo anche per fare sentire la voce dei Tuareg. Thank you. Kaira Harbi. Allora, sì, parlavamo dunque di un po' del contesto mondiale in cui prende, diciamo, vediamo un po' gli eventi del Mali, non è facile, è chiaro. Riteniamo, ho ritenuto almeno due cose importanti. La prima è che da 50-60 anni, forse anche di più, la scelta economica è stata una scelta globale. Una scelta di essere appoggiata sul mercato delle armi. Infatti già nel 90 Marilyn Warren, economista della Nuova Zelanda, nel suo libro Goose Hunting, faceva vedere come sul piano economico le tesi prese e riprese fino adesso sono delle tesi che sono state sviluppate in Inghilterra negli anni 30 con l'idea di come finanziare la guerra. Di queste cose non siamo mai usciti e abbiamo visto crescere i complessi militari industriali. Riprendevo un po' un testo di André Michel, femminista antimilitarista francese, che racconta che infatti anche il nome di complesso militaro-industriale dovrebbe essere molto più allargato a altre, perché evidentemente tutta l'istituzione di questi complessi comprende evidentemente tutta l'istituzione dei militari di alto livello e degli industriali delle armi, ma anche altri attori come gli scientifici alla testa dei grandi laboratori di ricerca che lavorano per la difesa, ma anche i banchieri che alimentano il mercato delle armi concedendo crediti a chi le produce e a chi le compra, anche la grande coorte dei falconi burocratici, grandi impiegati statali, politici, giornalisti che difendono gli interessi del lobby militare nucleari. E, diciamo che lei parla di funzioni latenti di questo sistema, mentre le funzioni manifeste che provano a farci credere sono la nostra sicurezza, la sicurezza dei paesi e delle persone di questi paesi si trovano dietro delle funzioni latenti che dice che le femministe con tutta l'analisi sociologica dovrebbe mettere a fuoco, rendere più visibile. Dunque, che sono queste funzioni latenti? Sono abbastanza ovvie per noi che comunque vediamo sempre queste società industriali che si basano da 60 anni su una militarizzazione a oltranza, mentre la sicurezza avrebbe potuto basarsi sulla prevenzione, la negoziazione e il dialogo. E infatti che funzioni latenti possiamo vedere? Semplicemente la riproduzione e l'accrescimento della dominazione dei paesi del nord su quelli del sud, l'ineguaglianza sociale e economica all'interno di ognuno Stato-nazione e ineguaglianza dei generi. Dunque il sistema militare industriale mira implicitamente a preservare lo statu quo nella dominazione di una zona geopolitica sull'altra dalle classi privilegiate all'interno degli stati e degli uomini sulle donne. Detto in un altro modo, André Michel dice che il sistema militaro-industriale crea una politica di relazioni internazionali, una politica di classe e una politica di genere, ma queste tre politiche non sono mai formulate come tale sia dai sistemi stessi, sia da quelli e quelle che le subiscono. Altro punto di questo contesto in cui vediamo questa guerra del Mali e la mondializzazione completamente legate al primo punto sviluppato adesso è la mondializzazione economica, la globalizzazione dell'economia mondiale che comunque fa crescere la povertà, fa crescere di più e di più di povertà, fa crescere l'eguaglianza a tutti i livelli. livelli che, in cui si infilano quelli che possono dare un po' di speranza e si infilano i religiosi. Se guardiamo il Mali, per esempio, a parte la vicenda degli ultimi mesi, si può anche parlare per esempio, del fatto che in 2009, solo come esempio, l'Assemblea voleva votare un nuovo codice della famiglia, un codice della famiglia che era vecchio dal 62, prevedeva dunque di cambiare 10 articoli sulle 1100 articoli esistenti. Questi 10 articoli proponevano l'eguaglianza di uomini e delle donne nel matrimonio e l'eredità, il diritto dei figli naturali e la primauté del matrimonio civile sul matrimonio religioso o coutumier. Di più, spinto per il consiglio maliano degli islamici, le protestazioni sono cresciute fino a manifestazioni di 50.000 persone, dicendo che questi punti erano contrario ai valori dell'Islam. Questo ha fatto che il presidente di allora ha dovuto rimandare il testo. Questo esempio per il Mali è ovviamente completamente valido sulle cose che per esempio vediamo in questo momento in Francia quando si tratta di matrimonio gay, qualche sia cosa ne pensiamo. La mobilizzazione dei cattolici non ha mai visto una tale importanza. Solo dunque, in questo contesto di economia mondiale, di crescita dell'integralismo, ascoltiamo Mamani, vediamo un po' dopo che succede in Mali, e intanto ascoltiamo Mamani Keita Mali, e lei dice: figli del Mali, per favore unitatevi. Kanga mali diara monike lauye mali dia molo kanga mali diara genike lauye mali dia molo kamme mali de ufo iye anga mali diara ha kamme mali fo kamme mali de ufo iye anga mali diara ha Kanga mali diara, jandara muye mali diya molo. Kanga mali diara, sororasi muye mali diya molo. Kanga mali diara, garidi muye mali diya molo. Kanga mali de ufo, ye anga mali diara ha. Mi bebe mali ma, o kanga ke mali la. Mi bebe faso ma, o kanga ke faso la. Yeah. Allora, in 2-3 minuti, come si sono svolti gli eventi in un anno in Mali? In 2 minuti, vediamo che dal 17 gennaio 2012, dunque un anno fa, vediamo il primo attacco del MNLA. MNLA è il Movimento di Liberazione della Zawab. La Zawab essendo la parte nord del Mali in cui vivono le Tuareg che vivono sia in Mauritania, Niger, Burkina Faso e Mali. Si deve sapere che le ribellioni Tuareg esistono da molto anni, non è la prima, infatti dalla fine della colonizzazione in cui le frontiere sono state messe così in modo abbastanza aleatorio in tutta l'Africa, questo popolo chiede nuove disposizioni che della sua indipendenza essendo tagliato in 3-4 territori diversi. Dunque, conseguenza della colonizzazione, un popolo che sta a cercare la sua indipendenza e la sua autodeterminazione. Le prime ribellioni Tuareg, 63, 90, 2006, 2009, ogni volta queste ribellioni non sono mai state ben considerate dal regime di Bamako e dopo braccia di ferro e altri accordi più o meno quasi direi mafiosi, ma diciamo sotto tavolo, senza veramente più di corruzione, diciamo, e con promesse di investimenti verso il nord del paese, integrazione dei combattanti Tuareg dentro l'esercito maliano, tutte disposizioni per fare tacere queste ribellioni Tuareg, queste rivendicazioni Tuareg. Da un'altra parte abbiamo visto che nelle primavere arabi l'intervento dell'ONU in Libia ha fatto che i Tuareg del nord Mali che avevano fuggito sia a alcune cecità del deserto sia a alcune repressioni del regime di Bamako sono stati in Libia e sono stati sia allenati e dal regime di Gheddafi, mentre quando l'intervenzione dell'ONU in Libia ha fatto tornare il paese, le Tuareg con armi e ha fatto che questa volta la ribellione del 2012 è stata un po' più importante. Un altro fattore è stato che la ACMI, che è Al-Qaeda per il Maghreb, Al-Qaeda per il Maghreb, islamica, sono comandanti che sono stati respinti dall'Algeria alla fine degli anni 80 e anche loro si sono ritrovati in questa zona, si parla di una zona enorme, di un deserto sud algerino, nord Mali, nord Niger e Mauritanie è una zona di traffico enorme che ha fatto che comunque si sono alleati questi tre composizioni, MNLA, l'ACMI e la terza componente era il Movimento per l'Unicità del Jihad in Africa dell'Ovest, il Mojao. Durante il primavera dell'anno scorso, piano piano le ribelli, i terroristi islamici, li chiamiamo come secondo le diverse fonti sono chiamate diverse, e hanno preso alcune città del nord, prima Gao e poi Kidal e poi Tombouctou, che è una delle ville molto, una città simbolo dell'Islam, di un Islam aperto, e una grande città di grande storia. Storia di questi popoli, di questa popoli, sarebbe la Firenze del Mali. Durante questi mesi il potere di Bamako non ha potuto fare, ha fatto poco, ma le opposizioni tra il potere e il nord del Mali sono state dure, ma diciamo che anche se il presidente si è demesso, se abbiamo visto il colpo dei militari e della giunta militare, la situazione del nord non ha cambiato molto. Pressione internazionale, pressione delle paesi accanto, CEDEAO, l'associazione delle paesi dell'Africa dell'Ovest, non ha fatto cambiare molto la situazione. Situazione in cui arriviamo adesso e in cui vogliamo fare sentire poi dopo alcune donne che raccontano la situazione in queste città di Gao e di Tombouctou. Ma prima ascoltiamo Fatoumata Diawara. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Fatoumata Diwara, Fatoumata Diwara femministe, questa canzone parla delle mutilazioni genitali, l'avevamo già sentita anche in un'intervista di lei nelle ultime Megaphonics. Allora, ritorniamo in Mali. In Mali, diciamo che dopo che sono stati alleati MNLA, Mojao e l'ACMI, piano piano gli islamici hanno messo da parte il movimento di liberazione per la Zawab e hanno controllato e imposto la Sharia alle popolazioni del Nord Mali. Dobbiamo sapere che le popolazioni del Nord Mali rappresentano un terzo delle popolazioni totali del paese. Sentiamo una donna di Gao che racconta. Lei è direttrice di scuola, sta a Bamako per una riunione e racconta un po' la situazione che sta vivendo a Gao in questo momento. Sono vraiment à l'écart de tout. Elles ne doivent pas se promener avec des hommes. Le donne devono essere sul lato, non possono neanche camminare con un uomo. Il tuo proprio figlio non può prenderti a moto. Non puoi andare al mercato, non puoi andare al fiume per lavarti. En tant que directrice de CAP, je n'ai pas le droit de faire une réunion avec mes directeurs d'école. Io, per esempio, come direttrice di scuola, non ho neanche il diritto di fare una riunione con i miei colleghi maschili. Le droit de parler à la radio. Donc, non ho il diritto di parlare alla radio. En sortant, il faut se camoufler, presque. Se e quando devo uscire, devo essere nascosta. In un velo molto lungo, solo gli occhi possono uscire. E fino ai mani. E io devo rimanere a casa perché io non posso mettere questa cosa, cioè fa troppo caldo. Perché è un velo che è molto caldo dentro. E sì, non fai questo, loro ti picchiano. Le Mujao vengono dentro le famiglie. Une femme assise qui ne porte pas le voile. E se trovano una donna così seduta che non porta il velo, ils peuvent même chicoter cette femme. La picchiano. Ils ont pris le micro pour dire qu'ils font une sensibilisation. Per esempio, in alcuni giorni hanno preso il microfono per dire che facevano una sensibilizzazione sul mercato e dicendo alle donne dovete portare le hijab. Questa è la cosa migliore perché se no è come se camminate nude. Justement, je ne peux pas continuer à travailler. On est en train de. E io non posso continuare a lavorare. Sono discriminata. I miei colleghi maschili lavorano bene. Ma io non posso. Non ho neanche il diritto di fare riunioni con i miei colleghi. Del mio lavoro. A Gao. E questa società che è stata gestita dalle donne. Non possiamo più neanche andare nei luoghi di lutto, le lotti di battesimo. parce que chaque fois il faut que les hommes se séparent des femmes. Donc ogni volta le uomini devono separarsi delle donne. Aujourd'hui beaucoup de choses ont changé. E oggi molte cose hanno cambiato. E un'altra voce che volevo farvi sentire è una voce di Bamako, invece, di una donna che racconta come per lei ha cambiato la situazione a Bamako stesso, perché si deve capire che 430.000 persone sono sfuggite dal nord Mali verso o gli altri paesi accanto o verso Bamako e sono ospitati dalla famiglia, e lei racconta un po' come la situazione è. Elle dit qu'elle s'appelle Sitankita. Elle vend du poisson frais. Ne fa, marci conta. Donc là, il vendait del pesce. Maintenant que le poisson ne s'achète pas comme avant, depuis que la crise s'est déclenchée, elles ont eu beaucoup de problèmes. Da quando la crisi si è iniziato, hanno avuto molti problemi. Avant, elles avaient toutes les dépenses pour les enfants. La quantité de poisson que vous voyez maintenant dans la tasse, je pouvais vendre 4 fois. Prima poteva vendere 4 volte la cosa che vende adesso, e dunque c'erano nessun problema per nutrire i figli. Cette quantité. Mais aujourd'hui, je ne vois même pas la moitié de cette quantité. Donc ça ne va pas. Je n'ai pas les dépenses de mes enfants. C'est les enfants qui m'inquiètent beaucoup. E sono molto preoccupata per i figli, perché perché io non riesco a vendere, dunque non riesco a avere abbastanza soldi per le spese che mi danno i figli. Ho 7 figli. Vous avez un mari qui rapporte de l'argent à la maison? Mon mari était un mensonge. Il mio marito era muratore, e dunque, ma adesso con la crisi lui non ce n'ha più neanche lavoro. Mon mari était en instruction. Maintenant, les gens ont des problèmes avec la crise. Qui va construire? Perché nessuno costruisce, nessuno compra casa o strade. Appelé un maçon pour travailler. Donc mon mari n'a plus de revenus. C'est le seul poisson que moi je vends. Solo il mio pesce è quello che rapporta soldi a casa. On ne fait plus de pâtes et on ne mange plus du poisson comme avant. E non mangiamo più il pesce come prima. Non mangiamo più neanche la pasta. Mangiano zuppa. Moi je fais de la bouillie à la place du poisson. Avant, moi j'étais très grosse. Prima io ero molto grassa. Les femmes qui vendent du poisson, elles sont toutes grosses. Perché le donne che vendono il pesce sono tutte grasse. Parce que le poisson est très vitaminé. Perché il pesce è molto vitaminato. Maintenant, comme on ne trouve pas assez de poisson à manger, regarde moi-même maintenant. E adesso guarda come sono. Cioè, non si trova più abbastanza pesce da mangiare. Moi je suis maigre par rapport à avant la crise. E io sono magra, se guarda dopo la crisi, dopo la crisi. Si continua in musica con volevo mandare una tipica del Mali che si chiama Diaba Koita. Salaridela Bismillah Allah irahman irahimi. Tanto be manzo e menganda. Amfata woro ulo data. Ya samawati. Dugu fata woro ulo data. Ya filardi. Nimbe data kanulema. Manengalu alunenzo. Njena luta le. Salima kabila lima. Wole kawada noke. Alla kira mamma de yonkunu. Wose lima kabila li. Wole kakeba nani bange. Nyole nyafula luye. Akakanu simbombange. Kanukanu nyoko simbombange. Kabata simbombange. Kabala simbombange. Kumfata maganjeni wole gasasu maziga dambata wole bangeta mansada garantu manila barama mandi kunna urade agama falesi seta wole bangeta mansa joroni kunna joroni asadam badi mansa joroni nuku ama mandi kunna urade alumi tentenne khati khonte muso di jabatri mama nare njata tata le wale togodi ma sunjata bangeta yommeli tene Anna matayata Atakamata yommeli tene Siraja liba kumanabo Harina dobe naluto Kositandina ninante futo la medomo Sunjata takata matalume Anna koleo Khalunale Nyaga musodi nisu baka musolo Sunjata takamata Mandengalu alulenzu Bari ngaralu ho Manta ya mafo manta jali hode Jaga jaga Siramori nisu olu mambamba lekela E allora sì, rimaneremo molto con Diaba, come ho detto, Diaba Koita. Ma volevo invece adesso dare parole alle donne che lottano sia contro la Sharia, sia che lottano contro l'invasione militare dell'Occidente, della Francia in particolare. E il primo intervisto è quello di Nina Ouellet Intalou. Nina Ouellet Intalou è una delle leader del movimento di liberazione nazionale liberazione della Zouala. E dunque una delle capa del movimento Touareg che dall'inizio quasi interviene dalla Mauritania e racconta un po' la situazione a Tombouctou, a Kidal. Kokundi Allora, il 5 giugno 2012 le donne Touareg hanno manifestato a Kidal contro il diktat imposto da Ansar Adin nella città. Ansar Adin essendo il capo di l'ACMI, Al-Qaeda al Maghreb islamico. Esigono la fine delle privazioni e delle libertà delle donne. Iyad Al-Ghalbi ha dato l'ordine ai membri dell'Adin di picchiare le donne che hanno manifestato. Alcune, anche anziane, sono state ferite dai uomini Tuareg del gruppo di Ansar Adin. Nino Awalet, che è una dei pilastri del MNLA, condanna questi atti e racconta e dice... Ashley daga wajen daga zawat ija daga alghasi matanke dal kalawar ne daga dunia. Quello che è successo oggi nella Sawad non era mai successo in pieno centro di Kidal. Non abbiamo mai visto un posto dove le donne sono state picchiate a parte oggi. Mai le donne sono state picchiate, perché nella nostra cultura Tuareg, quando una donna è picchiata dal suo marito, questo è direttamente seguito dal divorzio. A maggiori ragioni oggi loro manifestano per la loro libertà e gli uomini le picchiano come se picchiano animali. E questo perché? Perché hanno manifestato per mandare Acme e i salafisti fuori dal paese. Siamo stanche, le donne sono stanche, non possono più camminare fuori, non possono più lavorare, non possono più incontrarci e fare feste tra loro. Gli islamici salafisti guardano solo le cose che stanno facendo le donne, ma loro fanno ben peggio. Si occupano solo delle vite delle donne, dicendo loro che devono fare o non fare. Siamo stanche, le donne andranno a manifestare domani, quali che siano le conseguenze. Malgrado tutto quello che hanno fatto oggi, andremo a camminare domani e dopodomani, finché le donne ritroveranno la loro libertà nel nostro paese. Lo faremo perché gli azawadiani hanno già combattuto contro il governo maliano fino alla liberazione totale e adesso questi vengono a farci soffrire. Non possiamo accettare che questa gente ci fa soffrire. Andremo a camminare contro tutti gli azawadiani che vogliono impedire alle donne azawadiane la loro libertà. Non possono più farci soffrire nel nostro paese. Questo è il messaggio, il mio messaggio. Viva la Sawad. Ecco dunque il messaggio di Nina Wallet in Talu. Altri messaggi, altre reazioni. Ne abbiamo tante, e per esempio abbiamo delle voci, le voci di donne che si sono espresse contro la guerra molto presto, voce per esempio di Aminata Traore, che ha scritto nell'autunno scorso. Lei e altre donne scrivevano: lottiamo tutti i giorni contro la fame, la povertà e la malattia, affinché ogni bimbo possa crescere, lavorare e prendere le sue responsabilità. All'economia delle guerre, noi donne del Mali opponiamo l'economia della vita, facendo della tradizione in corso un'occasione storica un'occasione storica di affrontare una tripla sfida, quella del sapere, della cittadinanza e del dialogo. Secondo loro, l'evoluzione in corso tra la volontà di dialogo del gruppo armato di Ansar Adin e del MNLA devono essere esaminate con attenzione necessaria, non solo per evitare la guerra, ma anche per evitare gli ostacoli di accordi passati. Le concertazioni nazionali da quale si parla da mesi devono essere fatte per permettere alla società maliana di ritrovarsi e definire se stesse la base e le condizioni di una soluzione condivisa e non imposta al presente conflitto. Hanno parlato sulle conseguenze gravi che porterà un'intervenzione militare soprattutto per le donne, ricordando che gli stupri nelle zone occupate del nord che si moltiplicheranno che con l'arrivo di migliaia di soldati. A proposito delle sanzioni economiche imposte da comunità internazionali in nome di un ritorno all'ordine costituzionale, le donne ricordano come queste decisioni colpiscono per prima i gruppi vulnerabili, tra gli altri le donne. Dal fatto della divisione sessuale del lavoro, le donne sono confrontate a livello domestico a delle difficoltà enormi, difficoltà di approvvigionamento in acqua, cibo, energia domestica e medicine. Queste lotte quotidiane per la sopravvivenza, lotte che non finiscono mai, è già una guerra insieme. L'opzione militare che stanno preparando sarà un rimedio peggiore del male in sé, mentre un'alternativa pacifica uscendo dalla società maliana civile, politica e militare sarà costrittiva. E questo il messaggio delle donne uscite dell'associazione femministe e civile, anche del governo, visto che Aminata Traoré fu un'epoca ministra della cultura. E così. E poi un altro testo importante della situazione drammatica del Mali, esce una realtà terribile che si verifica in altri paesi in conflitto. Strumentalizzazione delle violenze fatte alle donne per giustificare l'ingerenza e le guerre di convoitise delle ricchezze delle loro paesi. È chiaro, l'abbiamo visto in Afghanistan, lo rivediamo qua in Mali. Le donne africane devono saperlo e farlo sapere. È vero che l'amputazione del Mali da 2/3 del suo territorio e l'imposto della Sharia alle popolazioni delle regioni occupate sono umanamente inaccettibili, ma l'instrumentalizzazione di questa situazione e anche della sorte delle donne è moralmente indefendibile e politicamente intollerabile. Abbiamo di questo fatto noi a Donne del Mali un ruolo storico a giocare qui e adesso nella difesa dei nostri diritti umani contro tre forme di fondamentalismo: il religioso attraverso l'Islam radicale, l'economico attraverso tutto il mercato e il politico attraverso la democrazia formale corrotta e corruttrice. Invitiamo tutte quelli che nel nostro paese, in Africa e altrove, si sentono preoccupate dalla nostra liberazione di questi fondamentalisti e che si mettono con noi e vengono aggiungere le nostre voci alle nostre per dire no alla guerra per procurazione che si profila. Infatti lei parla del fatto che l'Occidente ha iniziato la guerra contro gli islamici in Afghanistan e lo sta tranquillamente continuando in Mali, dopo aver comunque, lo sappiamo, armato questi islamici. Il richiesto delle truppe africane le truppe africane nel nord Mali, che hanno chiesto la comunità degli stati d'Africa dell'Ovest e dell'Unione Africana e anche alle Nazioni Unite, riposano su un diagnostico assolutamente falso e illegittimo. non è fondato su nessuna concertazione nazionale, né al sommito né alla base. Questo diagnostico esclude tutte la responsabilità morale e politica delle nazioni, quelle che hanno stuprato la risoluzione del 73, trasformando la protezione delle città libiane Benghazi in un mandato di rovesciare il regime di Gaddafi e di ucciderlo. La coalizione dei separatisti MNLA, Al-Qaeda, ACMI e quelli alleati, che ha vinto sopra un esercito maliano demotivato e disorganizzato, deve questa vittoria al conflitto libiano. E questo Consiglio di sicurezza sta per approvando un'intervenzione militare e pensa che questa potrebbe essere una guerra giusta. Noi non donne, dunque finisce come le donne del Mali e le donne africane devono dire di no a questa a questa intervenzione militare. Mi dispiace di essere non avere la fine. Ecco, sì, e comunque lo sappiamo e lo sapremo, le donne non saranno liberate, ci sono anche, possiamo anche trovare delle analisi che dicono che sarà esattamente come sarà in Afghanistan, sarà la giustificazione di liberare le donne, poi per 10 anni dopo, quando le truppe vanno via, appoggiare il governo e il potere dei talibani prima di partire, che comunque saranno, lo sappiamo, contro comunque tutte le libertà delle donne. Vogliamo finire? Si fa un po'. No, prima di finire volevo concludere con l'interesse della Francia a essere andata a intervenire in Mali, a parte che comunque fa sempre buono politicamente per un capo di Stato a essere visto come un carabiniere buono e pacificatore e liberatore degli altri paesi. Ci sono anche gli interessi diretti, visto che si trovano in Mali più di 5.000 francesi, tra 28 filiali di imprese francesi, 36 società che sono diretta da francesi, c'è anche se allora sono presi nelle esploitazioni di risorse naturali, minieri d'oro, sviluppo delle reti di strade, di acqua e di elettricità e telecomunicazione sono. Più dell'altro, adesso anche se vogliamo parlare un po' più precisamente, non sono veramente le risorse del Mali che sono da proteggere, ma più nel Niger, e la Francia non può in questo momento, nessun momento, poi dopo avere tutta questa ricchezza a portata di mano, il Niger fare che questa destabilizzazione del Sahel si propagherà in Niger dove ci sono le fonti d'uranium della Francia che, come lo sapete, al 75% produce elettricità nucleare. E sicuramente un altro punto da prendere in considerazione prima di lasciarsi sono anche le tensioni che possono comunque essere in Francia, dove 80.000 maliani vivono, una grande comunità che fa che per esempio la città di Montreuil nella periferia di Parigi è la seconda città maliana del mondo dopo Bamako, comunità di maliani in Francia che anche loro hanno il loro peso nelle decisioni e nelle e nei legami con il paese che è stato colonizzato per più di 120 anni. Finiamo qua, ci sarebbe molte cose da dire. Finiamo con Ina Moggia, cantante che dà ritmi un po' diversi di quelli che abbiamo sentito. Dove mi scuse, sono partite due file insieme. Moggia che sta cantando For My Land. Without my family, all along on the road, I will sing till I'm back to them. E con lei finiamo qua la trasmissione di oggi. Vi dico a fra due settimane. 有没得实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里做。 我有一个 blue bomb， 阿峰 bomb， 他比就滚出来当。اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع الجبل للهوا بلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Aye bete di cino in caro blizzisti mala, tanti bene u fatini cosa coiu dala. Pour le même combat, me viens, tout unir, pour le même combat.